Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, fermo restando che oggi, come sempre, ci sarà anche la poco invidiabile classifica del programma. Poi ci collegheremo anche con capi. Il tema che continua a tenere banco, chiaramente, è quello della Banca d'Italia e nuove dichiarazioni anche oggi sulla Banca d'Italia, anche se ci sono altre notizie che tratteremo più in breve sulla Brexit. Ne ha parlato anche il Premier Gentiloni, lo stesso Premier Gentiloni che ha detto di Banca d'Italia non parlo nemmeno sotto tortura, il rapporto con il PD è ottimo. Il rapporto tra governo e Partito Democratico è ottimo. Decideremo garantendo l'autonomia della Banca d'Italia, che è molto importante per i mercati. E Matteo Renzi ha ritwittato quello che ha detto il Premier Gentiloni sul rapporto tra governo e PD: ottimo. Renzi ha poi aggiunto: non discuto dell'autonomia della Banca d'Italia, ma sto con i cittadini. Da questo punto di vista invece ci sono altre dichiarazioni, ma ne tratteremo anche nella seconda ora del programma, perché è intervenuto a sorpresa anche alla due giorni dei giovani di Confindustria a Capri il leader di Forza Italia Berlusconi, che già in mattinata era intervenuto dicendo la Banca d'Italia è indipendente, Renzi è stato improvvido, la mozione incide negativamente sulle relazioni internazionali del paese. E poi ancora il capo del Dipartimento di Vigilanza Bancaria della Banca d'Italia, Carmelo Barbagallo, sarà ascoltato in commissione parlamentare, commissione sulle banche, nella giornata di giovedì 2 novembre, prima Barbagallo e poi il direttore generale della Consob, Angelo Apponi. E questa mattina il presidente della commissione bicamerale d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, Pier Ferdinando Casini, ha ricevuto a Palazzo San Macuto sia il presidente della Consob Vegas, ha ricevuto il presidente della Consob Vegas e ha detto in spirito di collaborazione istituzionale ha preannunciato Vegas il deposito entro la giornata di oggi della documentazione relativa alle banche venete. E oggi avremo anche un punto su questo, visto l'appello dei 46 economisti sul Sole 24 Ore, un appello per salvare la Banca d'Italia dalla politica. Sulla nomina del prossimo governatore serve un passo indietro. E di questo parleremo, dopodiché ci sono anche altre dichiarazioni della Banca d'Italia. Per quello che riguarda i mercati, stiamo sostanzialmente a un più 0,90% Milano, che è la migliore oggi, a differenza di quanto accaduto nelle ultime giornate, perché Parigi è invariata, Francoforte meno 0,1%, Londra invariata, Dow Jones più 0,34%, c'è un recupero su alcuni bancari a partire da Unicredit più 2,80%, Banco BPM più 2% e poi tra i non bancari Moncler più 2%, Azimut più 1,80%, 1,60% lo guadagna Fiat Chrysler e ancora Buzzi Unicem più 1,60% e Steam Microelectronics più sostanzialmente 1,40%, Leonardo più 1,36%. Ancora tra chi è positivo, Telecom guadagna l'1,31% come CNH e Campari. Euro su dollaro quota 1,17,88, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e come sempre la diretta su Facebook. Allora, per quello che riguarda il gli altri temi di carattere internazionale, partiamo dalla Brexit, perché se ne è discusso molto oggi nel Consiglio europeo a Bruxelles. Ottimista sul negoziato, dice Theresa May, la premier britannica, ma c'è ancora molta strada. Lavoriamo per un buon accordo raggiungibile anche per gli altri 27 paesi. Ha chiesto poi la May ai partner europei di poter portare a casa un risultato che le consenta di difendersi dagli attacchi politici domestici. I leader dell'Unione Europea riuniti appunto al summit sono pronti a lasciare uno spiraglio nelle trattative della Brexit e dare ancora un appoggio, diciamo così, è stato chiamato un gesto di buona volontà a Theresa May, e in modo da poter arrivare a un via libera al negoziato sul commercio entro dicembre. Però il premier francese Macron ha detto: attenzione, il passaggio nella fase 2 del negoziato sulla Brexit è nelle mani di Theresa May. Sul fronte finanziario non siamo nemmeno a metà del cammino. Il vero problema, ha detto Macron, e devo dire che io sono d'accordo per quello che conta, è che chi ha voluto la Brexit non ha mai spiegato ai cittadini quali sarebbero state le conseguenze. Adesso c'è tutta questa difficoltà, imbarazzo e richiesta anche di aiuto di Theresa May ai partner europei per, diciamo, tra virgolette, proteggere dagli attacchi interni. Ancora su questo è intervenuto anche il premier Gentiloni, ha detto: l'accordo finanziario tra Unione Europea e Gran Bretagna è il dossier più delicato nella trattativa e non sia la spada di Damocle. Il discorso della May a Firenze è stato un passo in avanti, ma serve una definizione dell'impegno, e la priorità è, per quello che riguarda Gentiloni, la tutela dei diritti dei cittadini italiani che vivono in Gran Bretagna non possono avere danni. E quanto all'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, ha detto: Milano ha delle buone carte da giocare e ne esce bene, perché ci hanno lavorato tutti, governo, Farnesina. Dopodiché ci sarà la votazione, stiamo facendo un pressing diplomatico notevole, anche perché la nostra industria farmaceutica ha una sua forza e l'Agenzia Italiana del Farmaco ha una sua qualità riconosciuta internazionalmente. Quindi, aggiungo io, Milano è per forza la naturale candidata dell'Agenzia Europea del Farmaco. Gentiloni è intervenuto anche su nuove regole che potrebbero creare o riaprire una crisi nel mondo bancario. Il riferimento era alle nuove regole a cui sta pensando la Banca Centrale Europea sulle sofferenze bancarie del 1° gennaio 2018. Ha detto Gentiloni: attenti a mosse che possono riaprire la crisi del credito, visto che si sta andando, le crisi bancarie sono alle nostre spalle, ma l'impegno continua. Da Capri è intervenuto anche al microfono della nostra Teresa Trillò, margine del convegno dei giovani imprenditori di Confindustria, il presidente di Banca Mediolanum Ennio Doris, che ha detto: attenzione, con le nuove regole sulle sofferenze bancarie, sugli NPL, rischi di essere un anno difficile l'anno prossimo per le piccole e medie imprese. Le indicazioni che ci sono oggi è che, per quanto riguarda lo stock, le banche devono presentare un piano per rientrare dello stock in 5 anni, e questo naturalmente non sono 15 anni, 5 anni. Questo significa che l'accesso al credito l'anno prossimo sarà più difficile, quindi grosso problema per le piccole e medie imprese. Allora occorre che ci sia un'accelerazione molto forte in quello che era il programma che avevo immaginato all'inizio dell'anno, cioè quotazioni in borsa per tutte le imprese che ne hanno le caratteristiche, da 15 milioni di fatturato in su. Chiunque abbia una situazione che è un po' squilibrata fra mezzi propri e mezzi di terzi va sicuramente sistemata. Ancora due notizie, una riguarda proprio la Banca d'Italia, ma in questo caso non come oggetto di notizia ma come fonte di notizia, perché nel bollettino della Banca d'Italia diffuso oggi si legge che il numero degli occupati in Italia, non di disoccupati, degli occupati, cioè di chi ha un lavoro, ha fatto 100 il numero di chi potrebbe lavorare, è tornato ai livelli pre-crisi, ma si registra un calo delle ore lavorate del 5%, quindi lavorano come... Il numero di persone è uguale a livello pre-crisi, è che lavorano meno, e questo vuol dire che anche i salari sono più bassi. C'è un calo delle ore lavorate del 5%. La dinamica dell'occupazione nel secondo trimestre, scrive la Banca d'Italia, è in prevalenza attribuibile all'aumento dei dipendenti a tempo determinato, più 5%, mentre i contratti a tempo indeterminato sono fermi, più 0,2%. Nei nostri esercizi di simulazione, poi ha continuato la Banca d'Italia, è possibile raggiungere un forte calo del rapporto debito-PIL, ma a fronte di adeguati avanzi primari, cioè la differenza tra quanto entra e quanto esce nelle casse dello Stato prima di pagare gli interessi sul debito. Il PIL italiano nel terzo trimestre è più 0,5%, su base annua forse oltre l'1,4% stimato in precedenza. E poi la Banca d'Italia fa notare che cala la riduzione dello stock di credito deteriorato, quindi non performing loans, NPL, sofferenze bancarie, è scesa all'8,2% al netto delle rettifiche di valore nel secondo trimestre contro il 9% del primo trimestre. Allora, due notizie, una non buona, l'altra se vogliamo buona, e poi arriviamo al referendum del Lombardia e Veneto. Allora, l'OCSE, o meglio l'Istat, utilizzando anche dati OCSE, fa notare come l'Italia negli anni 50 fosse tra i paesi europei più giovani ed è invece invecchiata più rapidamente. Tra i vari paesi europei, nel 57 la media della popolazione italiana aveva meno di 31 anni, ora ne ha più di 45. Ci arrivavamo anche noi, visti i tassi demografici in Italia, c'è poco da sorprendersi. Poi abbiamo fatto decine di puntate su cosa vorrebbe dire fare politiche economiche proattive per la famiglia, al di là della retorica della politica. Invece la buona notizia, se vogliamo, è che nella differenza, nel gap tra lo stipendio dell'assunto uomo e della donna, il gap c'è anche in Italia, ma è il più basso tra i paesi dell'Unione Europea. Uno mi potrà dire perché da noi sono anche bassi gli stipendi dei maschi e quindi si accorcia la distanza. Io do il dato, Eurostat, la differenza in Europa è del 16%, cioè una donna guadagna a parità di mansione e di anzianità, cioè di carica, di tutto, il 16% in meno di un uomo. Da noi questa differenza si riduce al 5,5%. Le differenze più ampie sono in Estonia 27%, Repubblica Ceca 22%, Germania 22%. E le più basse sono Lussemburgo, Romania, Belgio e Italia. Ovviamente, come dicevano in precedenza, più alto è, diciamo, il salario della componente maschile, più aumenta anche la differenza, perché sennò non ti spiegheresti perché la Germania ha uno scatto del 22%. Oh, il referendum che si terrà in Lombardia e in Veneto. Ne hanno parlato questa mattina a 24 mattino con Luca Telese e anche con Oscar Giannino, sia il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni che il presidente della Regione Veneto Zaia. Maroni, nello specifico, ha risposto anche all'Emilia Romagna, dove Stefano Bonaccini si è mosso con un'altra procedura al presidente della regione, cioè chiedendo l'apertura di un tavolo al governo, non andando a un referendum. Maroni ha detto: sì, Bonaccini si è mosso dopo che però ci eravamo attivati io e Zaia. L'abbiamo stimolato, diciamo così. Dopodiché canta vittoria perché dice: io ho già fatto quello che voi farete solo dopo il referendum. A leggere il comunicato di Palazzo Chigi non pare proprio così, perché dice che Palazzo Chigi, sì certo, farà tutte le verifiche, se del caso anche in forma bilaterale, se del caso, cioè decide tutto Palazzo Chigi, e in ogni caso non c'è un euro dentro lì. Anzi, il giorno dopo aver fatto questo accordo tra virgolette a Palazzo Chigi, il governo cosa fa? Taglia all'Emilia Romagna 230 milioni e alla Lombardia 450 milioni. Tagliare 450 milioni, soprattutto una regione virtuosa come la Lombardia, che ha già fatto tagli, che è la regione che costa di meno per pro capite, che è la regione che ha ridotto le spese, che ha un numero di dipendenti che è un ventesimo di quelli della Sicilia, eccetera, eccetera, eccetera, e il rischio è che dobbiamo ridurre i servizi, e questo non va bene. Sempre Maroni che dice: ogni lombardo, non ogni contribuente, ma ogni cittadino, compresi i neonati, ogni anno lascia a Roma 5.400 euro pro capite. Io chiedo che una quota rilevante di questi 5.400 euro torni nella regione dove sono prodotti. Se tutte le regioni adottassero il metodo lombardo per la spesa pubblica, lo Stato risparmierebbe 23 miliardi, un'intera manovra finanziaria. Una volta infatti c'era anche l'idea di usare alcune regioni come benchmark nel famoso federalismo fiscale, che poi è diventato lettera morta, visto che stiamo per introdurre la classifica. Sentiamo Maroni. Ogni lombardo, ogni cittadino, non ogni contribuente, ogni cittadino, compresi i neonati, ogni anno lasciano a Roma 5.400 euro pro capite per le spese delle altre regioni. Ecco, io chiedo che una quota rilevante di questi 5.400 euro pro capite torni nella regione dove sono prodotti. Se tutte le regioni adottassero il metodo lombardo per la spesa pubblica, lo dice l'ufficio studi della Confcommercio, lo Stato risparmierebbe 23 miliardi, una manovra intera, solo per fare le cose come le fa la Lombardia. Si chiamano costi standard. Questo è l'obiettivo che noi vogliamo perseguire. E su questo anche appunto Luca Zaia, governatore del Veneto, sempre ospite questa mattina con Luca Terese e Oscar Giannino a 24 mattina. I veneti non hanno più l'anello al naso. La gestione di questo paese è stata una gestione centralista che ha devastato i conti pubblici, assistenzialista, e quindi fanno paura i veneti che vanno al voto. Sa perché? Vuol dire che quella storia distante dell'impero, no? Quei mezzadri veneti che per Roma hanno l'anello al naso, non ci hanno più l'anello al naso. È l'ora del riscatto dei veneti, è l'ora di dimostrare che noi siamo rispettosi della Costituzione. E mi faccio citare Napolitano: l'autonomia è una vera assunzione di responsabilità. Allora, più Stato, chi vuole più Stato? La Sicilia che non riesce a incassare con 10 decimi delle tasse che restano in Sicilia, cioè tutte, non riesce a incassare 52 miliardi di tasse dei suoi cittadini. È evidente che ha bisogno di più Stato, perché l'autonomia la gestisce male. E meno Stato dove ci vuole meno Stato. Devo dire che poco fa su questo è intervenuto anche il ministro Maurizio Martina, vice segretario del PD, nonché milanese. Ha detto: se uno pone la questione del residuo fiscale, cioè la differenza tra quanto viene trattenuto poi dalla regione, sostanzialmente si avvia verso una versione quasi secessionista. Penso che abbiamo bisogno di tutto fuorché di una deriva catalana. Il residuo fiscale non è materia di trattativa, semmai l'ambito sono le materie concorrenti che possono essere eventualmente delegate in toto alle regioni con perimetri circoscritti. Quindi che cosa, per esempio nel referendum si chiede anche la delega per quello che riguarda il commercio con l'estero. Comunque, visto che si parla, ognuno poi la pensi come vuole sul referendum, che è un referendum assolutamente diverso dagli altri, infatti ha un valore solo consultivo, però... e riguarda una parte, per quanto importante, ma una parte del paese. Io voglio andare alla classifica, però diciamo ci stava perfetto, perché io so già, ecco, fai il leghista. No, non faccio il leghista. C'è una richiesta delle regioni Lombardia e Veneto, e poi c'è invece la nostra classifica, dove non è vero che ci sia solo il sud, lo dico a chi mi sta scrivendo, c'è quello che troviamo, e oggi ne avremo anche per Lombardia. Una settimana fa, ci occupammo 2 settimane fa del MOSE, che mi sembra un bello oggettino per il Veneto, però poi se in proporzione troviamo più notizie di sprechi e malversazioni al sud, non è che la critica può essere ce l'avete col sud. Vediamo di fare in modo che ne arrivino meno di notizie dal nostro mezzogiorno. La classifica della settimana. Vedo alcuni commenti. Intanto, sì, Martina di Bergamo ha avuto un ruolo attivo nel PD milanese. Dopodiché a Bergamo c'è il sindaco Gori, che invece vede con favore questi referendum. Lo stesso Sala, sindaco di Milano, non li ha visti in maniera negativa e fanno parte del PD. Invece l'ex sindaco Pisapia era contrario. Insomma, molto variegato l'universo. Comunque, andiamo alla nostra poco invidiabile classifica. Anzi, siccome dobbiamo partire dal quinto posto, vi dico già che oggi al primo c'è una mezza sorpresa in base al criterio. Andiamo sul meteo e la pubblicità, così poi facciamo una bella tirata di classifica e la startup, e poi ci colleghiamo con Capri, dove anche la Banca d'Italia è oggetto di interventi, ma non solo, ascolteremo altre reazioni sulla Banca d'Italia. 349 238 6666 per SMS e WhatsApp. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, la poco invidiabile classifica del programma parte oggi con il quinto posto e voglio dire, poi avremo anche la sorpresa del primo. Vabbè. Allora, il quinto posto, io vorrei toccare una figura che a mio avviso è quasi mitologica. Lui si chiama Anthony Emanuele Barbagallo e nella vita fa l'assessore al turismo della regione Sicilia. È specializzato, si fa per dire, in iniziative di carattere turistico che molte volte stanno sotto i 10.000 euro, quindi sfuggono anche a una forma di controllo. Per l'esattezza 103 manifestazioni ha finanziato per un totale di 500.000 euro. Tu dici, beh, non è tanto, beh, insomma, intanto sono sempre 500.000 euro, ma soprattutto concentrate per la maggior parte nel suo collegio elettorale. Ora, uno potrebbe dire, siccome Barbagallo fu reso famoso dalle cronache quando disse l'emergenza migranti danneggia le eccellenze siciliane e non si possono distribuire i profughi nei comuni turistici. E il problema è un altro, perché uno può anche dire, vabbè, fai bene a fare 103 iniziative da 500.000 euro complessivi perché così vai sul territorio. Però poi uno deve fare anche un bilancio, forse anche gli assessori di tutte le regioni, compresa la regione Sicilia, si devono abituare anche a un obiettivo, a un risultato. Perché lo dico? Perché perfino nell'anno scorso, dove abbiamo avuto una ripartenza di tutte le presenze turistiche, chiaramente complice anche la tensione terroristica in tutto il resto del Mediterraneo, Turchia, Tunisia, Egitto, quant'altro volete voi, la Sicilia è riuscita ad avere un calo delle presenze turistiche. Cioè, una cosa, voglio dire, ma non un calo dello 0,1, meno 7,2%. Questo lo dice l'Osservatorio Turistico Regionale sui dati Istat. Presenze calate del 7% rispetto all'anno precedente, scendendo a 13.462.000. E tra l'altro, solo un turista internazionale su 7 che viene in Italia va in vacanza nel nostro mezzogiorno. Ora, che è bellissimo, faccio notare che l'anno scorso la Turchia ha fatto meno 30% nelle presenze, solo il 14% va in vacanza nel mezzogiorno. E tra l'altro la Sicilia, restiamo sulla Sicilia, è praticamente ha un 52esimo del totale italiano, nonostante i 9 siti UNESCO, nonostante le città d'arte, nonostante Segesta, Piazza Armerina, Selinunte, Agrigento, Siracusa, l'Ortigia, quello che volete voi. Allora, pensate che il Veneto di presenze, che il Veneto per carità è bellissimo, ci mancherebbe, ma non è che una gara tra chi ha più bellezza mi metterebbe in estrema difficoltà, probabilmente ne ha più la Sicilia, non voglio offendere i Veneti, insomma, due regioni bellissime, il Veneto fa quattro volte e mezzo in più le presenze, 63 milioni di turisti. Non mi dite che sono solo le infrastrutture stavolta, perché la scusa delle infrastrutture, ci sono due aeroporti importanti, c'è anche il terzo che è Trapani Birgi, Palermo e Catania, che sono anche aeroporti internazionali. Le autostrade in Sicilia non mancano, certo poi vanno sistemate, abbiamo raccontato la Messina, la Catania Milazzo Messina, se non ricordo male, la settimana scorsa. Il problema è come intercetti i tour operator, come ti metti d'accordo, i pacchetti che sai creare. Ma l'assessore al turismo della regione, ecco perché io dico, tu fai quello che vuoi, ma poi un bilancio devi fare, no? Non gliene frega nulla, perché lui ritiene che questo sia il metodo migliore. Prendere il budget, farlo a pezzi come uno spezzatino e distribuirlo a pioggia su infinite manifestazioni che riguardano solo sostanzialmente chi abita in quei luoghi, ma non il turista che dovrebbe arrivarvi. E quindi ecco, uno dice, ma insomma, tra l'altro sono in zone che possono essere anche il tuo collegio elettorale, perché le fai queste manifestazioni? Anthony Emanuele Barbagallo. Allora, vediamone un po' queste manifestazioni. Cito, lui è candidato alle regionali con la lista del megafono che sostiene Fabrizio Micari del PD. Allora, ne dico alcune perché devo andare veloce. È importantissimo per attrarre i flussi turistici internazionali sponsorizzare il Padre Pio Day, ma che poi voglio dire, io capisco in Puglia, no, dove è nato Padre Pio, ma che c'è Padre Pio Day, 2500 euro, immagino l'impatto, cavolo, sulla capacità di accogliere turisti internazionali e anche nazionali. E poi l'associazione Devoti di San Michele Arcangelo e Santa Caterina per la mostra di Gran Michele e i festeggiamenti in onore di San Sebastiano Martire, che non, chiaramente non sono io, 4.000 euro. Anche lì immagino l'impatto sui flussi turistici mondiali. A Ragusa, finanziato per 4.000 euro il benvenuto al 2017. Ma che cavolo è il Capodanno, immagino. Benvenuto 2017, da tutto il mondo che vengono a Ragusa, che è una città bellissima e merita altro tipo di iniziative. Le bande musicali, anche lì da tutto il mondo vengono per ascoltare bande musicali. 1.000 euro a quella di Castellammare, 960 euro a quella di Gualtieri Sicaminò. L'agosto di Gallo d'Oro, finanziato per 4.000 euro. Le vibrazioni sicane a Bivona, 5.000 euro. E Ragalna in festa, 4.000 euro. Ragalna in festa per i 4.000 euro, non lo so. Ma poi c'è la sagra della ricotta di Marianopoli a 9.982 euro, la festa delle ciliegie, il laboratorio del gusto, la festa di San Paolo Apostolo, la sagra Caliceddi, salsiccia e vino, alla festa di San Nicola, la castagna d'argento a tre castagni. Beh, visto che sono tre, fai castagna d'argento, bronzo e oro, al costo di 5.000 euro. E poi la festa della vendemmia a Piedimonte Etneo, pure 5.000 euro, la sagra del formaggio a Santo Stefano di Quisquinia. Devo dire che si sono arrabbiati sia Claudio Fava, candidato governatore per MDP, che anche Forza Italia, e hanno detto, insomma, Forza Italia ha pronunciato un esposto per voto di scambio e Fava ha detto che Barbagallo tratta la regione come un banco, ma Barbagallo non si scompone, dice: noi siamo da settimane nei territori, gli altri pensino ai sondaggi, il 6 novembre tireremo le somme. Sì, lei fa bene a fare campagna elettorale, è il suo lavoro, però prima, usare soldi pubblici per sviluppare un turismo in questo modo, ripeto, magari era una nuova strategia di guerriglia marketing. Fatto è che il dato è inequivocabile, Barbagallo, meno 7% nell'anno 2016 migliore, adesso vedremo il bilancio di quest'anno, per il turismo in Italia da un bel po' di anni, complice le sfighe degli altri. Ho capito che fa lavorare un sacco di gente, ma allora chiamiamo l'assessorato al welfare e non assessorato al turismo. Andiamo al quarto posto, dove volentieri parlo di una vicenda che trattammo a lungo, quella delle Ferrovie Nord di Milano. Il PM ha chiesto 2 anni e 8 mesi per l'ex presidente Norberto Achille. Ne parlo volentieri perché questa radio si è anche occupata della vicenda di Andrea Franzoso, che ha scritto un libro, Il Disobbediente, raccontando come dopo le sue denunce, quelle che portarono all'inchiesta sulle spese allegre, facili, sui furti dentro Ferrovie Nord, dipendente delle Ferrovie Nord racconta molto bene l'isolamento in cui poi è finito, gente che gli diceva: ma chi te l'ha fatto fare? E poi la perdita del lavoro, adesso c'è la legge che, per fortuna, io spero che vada veloce, ha approvato il Senato, quella sui cosiddetti whistleblower, sarebbero i suonatori di fischietto, vuol dire chi suggerisce, chi fa, non la spia, chi segnala e ha garanzia dell'anonimato comportamenti di malversazione dentro un'impresa pubblica. Tra l'altro questa legge prevede anche i riconoscimenti pubblici, lui è stato incontrato dal presidente Grasso, e anche un nuovo lavoro, ok? La legge tra l'altro va a tutelare chi segnalerà, appunto, con l'anonimato comportamenti illeciti. Il PM che indaga sulle Ferrovie Nord ha chiesto, infatti Giovanni Polizzi ha chiesto 2 anni e 8 mesi per Norberto Achille nel processo abbreviato per peculato e truffa, perché l'accusa è di aver distratto dalla società che è partecipata alla Regione Lombardia, dalle Ferrovie dello Stato, 430.000 euro di fondi di cui aveva disponibilità per via delle funzioni svolte, utilizzandoli per fini personali suoi, dei suoi familiari, la moglie e i figli. La difesa ha detto che solo 21.000 euro sono riconducibili ad Achille, tutto il resto alla moglie e ai figli, ho capito. Ma tra le spese contestate dal PM ad Achille c'è anche l'acquisto, tra il 2010 e il 2011, di 3 dipinti antichi per 17.000 euro, poi regalati all'ex governatore della Lombardia Roberto Formigoni, di cui il PM ha chiesto la confisca dei quadri. E poi due utenze telefoniche aziendali ad uso esclusivo della moglie del figlio Marco, a cui faceva addebitare le telefonate effettuate dall'altro figlio, Filippo. I figli telefonano troppo, Achille. Perché il totale dell'utenza aziendale che lei aveva girato a moglie e figli è 124.000 euro. Esistono altri modi, per chiamare. E poi le carte di credito aziendali, spese personali proprie dei propri familiari per 74.000 euro, 3.750 euro spesi in scommesse sportive, 7.600 euro spesi in abbonamento alla Pay TV, compresi i costi per la visione di una serie di film pornografici. E via così. E poi Achille non avrebbe comunicato alla società le multe prese dal figlio Marco con macchine aziendali, mettendolo in conto alle Ferrovie Nord Milano, che avrebbero pagato 160.000. Ma quante multe prendeva suo figlio Marco? 160.000. Guarda, io ne ho prese tante, purtroppo, ma una cifra del genere è chiaro che se sai che non le paghi, a quel punto non lo so, passava sempre col rosso, sempre, no? Perché 158.000. Lasciamo stare la difesa, che sostiene che siccome lui non era un incaricato di pubblico servizio perché era capo di Ferrovie Nord Milano Spa Holding e non delle società sottostanti, a lui deve essere contestata la protezione indebita, non il peculato. Vabbè, vedremo cosa deciderà il magistrato. La nostra solidarietà invece va, come già detto molte volte, ad Andrea Franzoso. Ma fatelo capo delle Ferrovie Nord a questo punto, no? Sarebbe un bel gesto per dimostrare anche la diversità del nord. Andiamo sul traffico, va. Focus economia. Andiamo al terzo posto. Vedo che alcuni scrivono al 349-238-6666 contestando il raffronto Veneto-Sicilia, il Veneto è vicino a Austria, Germania, oddio, non è che sono a mezz'ora, sia una mezz'ora proprio, però e quanto. Allora uno potrebbe dire, sì, ma guarda che la Sicilia ha dei siti archeologici molto più importanti, ha anche delle coste molto più lunghe, ma io non voglio, io non mi occupo. Per carità, la Sicilia ha anche più abitanti. Teniamo solo un dato, meno 7% nelle presenze, va bene? Lasciamo stare l'affronto con il Veneto, con la Toscana, con chi cavolo volete voi. Meno 7% le presenze turistiche nel 2016 in Sicilia. Se io fossi l'assessore al turismo direi, scusatemi, ho fallito, perché nell'anno in cui molti vengono da noi perché non vogliono andare né in Francia, né in Turchia, né in Tunisia, né in Egitto, e tu fai meno 7%, va bene? Ho fallito io, il sistema turistico, la capacità di creare un tavolo di concertazione, di invitare i tour operator, di capire che cosa vogliono, se servono charter negli aeroporti, da dove, perché, quant'altro, dove arrivano i flussi. No, perché il più importante è la saga della ricotta, basta accampare scuse. Ma è più importante sicuramente da un punto di vista elettorale, non certo da un punto di vista del flusso turistico. Allora, andiamo al terzo posto, dopo aver parlato anche delle Ferrovie Nord e della richiesta del PM. Oh, l'ATAC. Allora, io non voglio fare accanimento terapeutico, io capisco tutto, ma l'ATAC è in bancarotta e l'abbiamo detto molte volte, l'azienda municipalizzata dei trasporti di Roma. Io capisco tutto, ma com'è possibile che tu, per il consulente esterno, per il concordato ATAC, il concordato appunto per evitare il crack e il fallimento, viene affidato in maniera diretta, in deroga alle normali procedure, quindi affidamento diretto, lui si chiama Marco Costantini, commercialista iscritto all'albo dei revisori legali, sta già lavorando in via Prenestina all'ATAC come attestatore, quindi la figura centrale del concordato di incontinuità chiesto dalla controllata dall'ATAC il 18 settembre scorso. Ora, io dico benissimo, perché il concordato serve a non chiudere l'ATAC, appunto si chiama concordato in continuità e blocca anche i creditori. Ma com'è possibile, con il massimo rispetto del commercialista Marco Costantini, che sarà bravissimo, è tutto apparentemente tutto legale, non apparentemente, ma insomma, spende 1.500.000 di euro, a cui va aggiunta la cifra per la società di revisione, secondo la clausola del medesimo accordo, che dovrà aiutarlo nel suo lavoro di certificazione sulla veridicità dei dati aziendali. Valore complessivo 1,5 milioni a Costantino, 1,5 milioni di euro a Marco Costantini, 1,5 milioni di euro alla società di revisione che deve affiancare la Ernst & Young, che deve affiancare Costantini. Scusatemi, la società di revisione è la PricewaterhouseCoopers. Ho sbagliato. 3 milioni. Ma tutto cioè, insomma, la tariffa è sono tre voci: tariffa base 650.000 euro per Costantini. Tariffa professionale proporzionata all'importo del debito più il compenso alla società di revisione. La tariffa professionale dei commercialisti, fissata dal decreto ministeriale, oscilla tra 0,025 e 0,050% del valore del debito. ATAC ha un debito di 1 miliardo e 380 milioni, quindi tra i 350 e 700 mila euro. Poi c'è che vanno sommati ai 650 mila euro di tariffa base, e poi altri 500.000, quindi 1.125.000 a stare bassi, vanno maggiorati del 25% dell'IVA e della cassa di previdenza, quindi 1.400.000 euro per Costantini, poi 1,5 milioni per la società di revisione Pricewaterhouse. E poi faccio notare che già l'ATAC paga l'advisor legale, l'avvocato Carlo Felice Giampaolino, 270.000 euro, quello economico, che è la Ernst & Young, 208.000, tutto normale. Andiamo al secondo posto rapidamente e poi passeremo al primo. Non abbiamo rispettato questa volta l'ordine di grandezza, diciamo, del danno economico, che è di solito l'ordine che seguiamo per la classifica. Allora, qui vorrei andare a Genova, a dimostrazione che non ce ne frega nulla della regione. Ci sono due ponti a Genova. Allora, Ponte Andrea Doria e Ponte dei Mille. Sono stati spesi complessivamente 25 milioni di euro per i due pontili. Il primo, Andrea Doria, ampliato 10 anni fa, inaugurato nel settembre 2011, ha squarci aperti sulla testata, dal 30 agosto scorso è inibito all'attracco delle navi con lunghezza superiore ai 250 metri. Il Ponte dei Mille, anch'esso era stato rimesso a posto, ha una fessura al momento limitata che si è aperta nelle scorse settimane, ma fa temere il peggio, tant'è che vieta un'ordinanza alle crociere di grossa stazza di attraccare di poppa verso terra, di compiere manovre con le eliche laterali e senza l'utilizzo dei rimorchiatori. Sembra che questi soldi, non si capisce bene dove siano finiti questi soldi, la battuta è, parlando di Genova, sono finiti in fondo al mare. L'impresa dell'edilizia che aveva realizzato le opere, la COP7, è in liquidazione coatta e difficilmente l'autorità potrà ottenere la riparazione del danno del risarcimento. Cosa farete nei confronti di COP7? Boh, stiamo valutando caso per caso sulle autorità. Di solito nelle opere pubbliche c'è una clausola di garanzia per 15 anni, cioè se fai l'opera pubblica non è che almeno 15 anni deve restare, no. Meno di 10 anni fa, e ricordano la stazione marittima che quegli ampliamenti avrebbero dovuto prevedere che lì non sarebbero arrivati i piroscafi dell'Ottocento, ma bensì con navi da crociera con le eliche laterali, come ha fatto l'esempio costruire un'autostrada dove non possono transitare i tir. Il problema è che nel frattempo la COP7 è fallita, in liquidazione coatta, e vorrei capire come le autorità potranno riavere i loro soldi. Ripeto, 25 milioni, 13 per il ponte, 12 e mezzo per il Ponte Doria, 13 per il Ponte dei Mille, hanno già le crepe e sono già stati bloccati, appunto, sia uno che l'altro. Complimenti ai genovesi che di solito ai soldi invece ci tengono. Andiamo su GR24 e poi il primo posto in classifica è il caso virtuoso. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. E 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Per quello che riguarda la classifica, siamo arrivati al primo punto, al primo posto della classifica. Ripeto, il danno economico dei lavori fatti a Genova poteva essere sui due ponti, poteva essere tranquillamente al primo posto della classifica visto il valore, però abbiamo preferito mettere al primo posto un'altra notizia che come valore economico è più basso, ma è di uno schifo tale dal punto di vista etico e morale, se si può ancora usare questa parola, che va direttamente al primo posto. And the winner is... Allora, lui si chiama Giorgio Di Rosa, è ex presidente dell'AIAS, Associazione Italiana per l'Assistenza agli Spastici. Ed è la Procura Regionale della Corte dei Conti ha ottenuto e chiesto la condanna dell'ex presidente a risarcire l'ASP, azienda sanitaria provinciale di Palermo, di 578.804 euro, che sarebbero stati sottratti dal Di Rosa all'assistenza dei portatori di handicap. La trovo una cosa schifosa, anche perché abbiamo attaccato più volte la regione siciliana, Sicilia, che riesce a trovare soldi per qualunque cosa, e anche per i 22.000 forestali, tranne che per i disabili. La scuola è ancora difficile per i ragazzini a Palermo, i pulmini, gli assistenti latitano a quasi un mese dall'inizio. L'abbiamo raccontato la settimana scorsa: niente trasporto da casa a scuola, niente assistente igienico personale in classe. Il sindaco Orlando che ci sta cercando di mettere una pezza, le scuole avevano assicurato di avere a disposizione i bidelli formati per l'assistenza igienico personale, adesso chiedono gli assistenti delle cooperative, in tutto 186 persone, chi ne sta pagando le conseguenze sono i ragazzi disabili e le loro famiglie che hanno difficoltà ad andare a scuola, anche perché praticamente a Palermo sono stati destinati 3 milioni di euro dalla regione, cioè il 46% del fabbisogno reale, che è di oltre 7 milioni, però si trovano i soldi per tutto il resto in regione. Allora, oltre a questo, abbiamo anche il caso singolo del Giorgio Di Rosa. Praticamente, di fronte al collegio, ha retto in tutto e per tutto l'impianto accusatorio proposto dal pubblico ministero Adriana Laporta dopo le indagini del gruppo di Palermo della Guardia di Finanza. Secondo l'accusa, confermata dalla condanna, Di Rosa, fra il 2008 e il 2013, avrebbe percepito oltre 333.000 euro di rimborsi chilometrici, ma si sarebbe fatto pagare anche soggiorni per lui, il figlio, la moglie e i cognati. Guardate che stiamo parlando di già 330.000 euro per 5 anni, sono 60.000 euro all'anno di rimborsi chilometrici, ma dove cavolo partivi? E oltre a questo, 30.000 euro in un hotel di Palermo, quindi paga soggiorni per lui, il figlio, la moglie, i cognati, da oltre 30.000 euro in un hotel di Palermo, immagino sempre lo stesso, visto che è singolare, e poi alcune spese legali per procedimenti non riconducibili all'associazione e un incarico al figlio, Antonio Di Rosa, costato 152.000 euro, inclusi i rimborsi spese. E sugli alberghi, è stato dimostrato a nota il collegio che l'ha indagato e la difesa nulla ha contestato in merito, che ogni qualvolta Di Rosa si fermasse a dormire a Palermo senza tornare alla propria residenza di Modica, capirei, portava con sé la moglie e il figlio Andrea, non Antonio, quello era già consulente dell'AIAS, che consumavano pasti e dormivano a spese dell'associazione, spese che non possono non ritenersi illegittime stante l'assoluta arbitrarietà delle stesse. Il conto sfiora i 600.000 euro, 578.000 euro di soldi, dato quindi oltre ad avere un'azienda sanitaria provinciale che non riesce a gestire il tema vero dei disabili e delle loro famiglie, oltre a essere lui presidente dell'Associazione Italiana per l'Assistenza agli Spastici, andava a fregarsi 600.000 euro. Io non gli do nessun applauso, gli chiedo semplicemente almeno la vergogna per quello che ha fatto, se la vergogna è un sentimento che può, un sentimento molto alto anche, che può valere la vergogna, visto che rubare è sempre e distogliere denaro pubblico è sempre un reato, ma quando lo fai nei confronti dei disabili in una regione che ha i problemi che ha la Sicilia, oltre alla vergogna ci dovrebbe essere anche la gogna, la vergogna. Gogna più la gogna. Complimenti a Giorgio Di Rosa. chiama Giorgio Di Rosa, ex presidente dell'AIAS. Il figlio che ha avuto l'incarico conta è stato anche quello, si chiama Antonio Di Rosa, non conosco il nome della moglie, tutti quanti andavano solo 30.000 euro di alberghi. Ma ripeto, è anche il compito che avevi che rende ancora più grave ed esecrabile quello che hai fatto, a mio avviso. Ma non mi interessa la condanna, quelli che io, sapete cosa farei, so che poi diventa populista, ma uno così gli dai una bella condanna di lavori socialmente utili per 5 anni, no? A portare, visto che mancano a Palermo, allora prende la sua bella macchina, la adatti, vada, inizia a fare l'autista, a dare un servizio, lavori socialmente utili nei confronti dei disabili che hai fregato in questi anni, altro che condanne che poi Gianluca Manca, fondatore e amministratore delegato di Intertwine, buonasera. Buonasera, buonasera. Allora, cosa fa Intertwine, quanti anni ha lei e quando l'avete fondata e chi vi ha aiutato? Io ho 33 anni, abbiamo fondato Intertwine nel 2013. Intertwine è una piattaforma per lo storytelling, quindi è una piattaforma sulla quale i nostri utenti possono scrivere delle storie digitali. Quando parlo di storie non intendo solo testuali, ma storie che hanno al loro interno appunto contenuti multimediali, contenuti per il web. Possono scrivere da soli o insieme ad altri utenti. Noi abbiamo raccolto una community di circa 25.000 utenti, professionisti o semiprofessionisti della creazione di contenuti. E come vi dicevo, nel 2013 abbiamo fondato l'azienda grazie a un primo investimento di Digital Magic, che è un incubatore d'azienda milanese, sì, certo, che ci ha finanziato, ci ha dato 110.000 euro. E da lì, insomma, siamo partiti quasi per caso, poi è diventato il nostro lavoro. Considera che io ho una formazione umanistica, sono laureato in filosofia, adesso mi trovo a fare l'imprenditore di un'azienda che opera nel campo del digitale, quindi insomma una storia un po' particolare. Dov'è ha sede l'azienda? L'azienda ha sede legale in provincia di Salerno, a Fisciano, dove c'è l'università. Noi in realtà siamo tutti napoletani, abbiamo una sede a Napoli e poi una sede a Pescara. Ecco, i primi soldi ve li ha dati appunto Digital Magic, avete raccolto, fatto altri crowdfunding? Sì, abbiamo fatto anche crowdfunding con Eppela 2 anni fa, se non sbaglio. Poi siamo stati finanziati dall'RCS, che aveva un percorso di incubazione per aziende nel campo editoriale, e l'anno scorso poi abbiamo raccolto circa 1 milione di euro tra FIRA, che è un fondo regionale abruzzese, mezzo pubblico, mezzo privato, Invitalia, che vabbè, conoscerete sicuramente, e Banco Napoli. Bene, bene. Senta, che giro d'affari avete e quanti siete? Noi adesso siamo una decina, diciamo sì, sono 6-7 dipendenti, più siamo 4 in consiglio di amministrazione, insomma sì, siamo un po' più di 10. E niente, noi abbiamo ancora un piccolo giro d'affari, penso che quest'anno fattureremo attorno ai 200.000 euro, però stiamo crescendo, insomma. È un lavoro che ci piace molto, è un lavoro molto dinamico e soprattutto è il nostro lavoro, è una cosa che ci inorgoglisce particolarmente. Senta, è stato difficile tenere a Napoli l'attività, perché uno magari pensa su questo tipo di startup, magari va a Milano, in un'altra città, ma è stata una scelta vostra proprio? Noi abbiamo lottato per rimanere a Napoli. Bravi. Perché secondo noi creare valore in meridione ha anche, diciamo, una componente sociale, no? Cioè, insomma, non è che siamo una multinazionale, però nel nostro piccolo cerchiamo di fare anche una cosa buona per il territorio. È anche vero che negli ultimi anni, certo 4 anni fa a Napoli non si sapeva neanche cosa fosse le startup, ma negli ultimi anni si è creato un movimento molto interessante a Napoli. Bene. Poi su Milano, io onestamente, io sono spesso a Milano chiaramente, insomma, per rapporti con i clienti, con le agenzie e cose del genere, però ormai le distanze non sono più incolmabili. No, in 4 ore parto da Napoli e arrivo a Milano Centrale, c'è un'ora d'aereo, ci sono aerei ogni mezz'ora. Secondo me la vera differenza non è tra Napoli e Milano, tra il sud e il nord Italia, ma è tra l'Italia e paesi che sono molto più avanti sulla questione startup, tipo Stati Uniti o Israele o UK o cose del genere. Quella è la vera differenza. Io non ho avvertito una grossa differenza. Bene, sono contento di quello che ci racconta e auguro a lei e ai suoi collaboratori e quindi alle 10 persone e alle nuove assunzioni che ci diceva avete in programma, in bocca al lupo vero. Grazie a Gianluca Manca, appunto 31 anni, fondatore di Intert Wine. Bocca al lupo a tutti voi, continuate così e andiamo sul traffico. Focus Economia. Ma io sulle soluzioni per la Banca d'Italia non parlo neanche sotto tortura, né un tanto al chilo, è un compito rilevante che spetta in parte al governo, come sapete, cioè c'è una procedura che investe diverse istituzioni, il governo prenderà le sue decisioni, lo farà nel rispetto, come ovvio, delle prerogative della legge, nel rispetto dell'autonomia della Banca d'Italia. Ma insomma non facciamo indiscrezioni o cose di questo genere. Così il premier Gentiloni da Bruxelles sulla vicenda Banca d'Italia, che anche oggi si arricchisce di nuove dichiarazioni. Gentiloni ha detto i rapporti tra il governo e il PD sono ottimi, Renzi ha ritwittato questa frase Gentiloni. Poi Gentiloni ha anche aggiunto decideremo garantendo autonomia alla Banca d'Italia, è importante questo per i mercati. Renzi, sempre sul tema, ha detto non discuto l'autonomia della banca ma sto con i cittadini. Il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda ha definito questo: se è un incidente prima rientra meglio è per il paese, se non è un incidente, se è una strategia invece sarebbe stato un errore gravissimo. Gli ha risposto il presidente del PD Matteo Orfini: il Parlamento che esprime una valutazione non è un incidente, è democrazia. E poco fa da Capri, nella prima giornata dei lavori dell'appuntamento annuale dei giovani di Confindustria, è intervenuto, a sorpresa devo dire, visto che non era previsto nel programma, anche il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Ci colleghiamo con la nostra Teresa Trillò da Capri. Buonasera Teresa. Buonasera a tutti. Sì, come dicevi tu Sebastiano, Silvio Berlusconi è tornato sul palco dei giovani imprenditori di Confindustria. È la prima volta che Berlusconi torna dopo 9 anni. Infatti l'ultima volta, bisogna tornare indietro a Santa Margherita al 2008, qui ha affrontato il tema della Banca d'Italia e ha parlato dicendo che praticamente non si è esposto, non fa nomi e anzi fa battute, dice un nome per il governatore, il mio, ma sentiamo che cosa ha detto dal palco. Io ho accusato la sinistra, sì, che ha sempre avuto questa smania di mettere uomini suoi su tutti i posti dopo le elezioni. Adesso anche prima delle elezioni. E quindi credo che un controllo sull'attività della Banca d'Italia nei confronti delle banche italiane vada fatto, sicuro. Fatto dentro la legislazione. Abbiamo creato una commissione apposita per fare le indagini sulle banche. Ma chi starebbe bene a quel posto? Cioè lei confermerebbe Visco o avrebbe altri nomi? Non ho nessun nome, eccetto il mio, perché saprei fare tutto. Anche quello, sì. Ma come sì. Comunque, no, è la commissione che deve fare e dalla commissione emergeranno inadempienze o meno della Banca d'Italia e quindi da Gentiloni. Beh. La legge come Catalogna, non si può fare un accordo fuori dalla Costituzione. La Costituzione è la legge primaria che tutti dobbiamo osservare. E sempre sul tema segnalo che oggi il presidente della Consob Casini è andato dal presidente della commissione bicamerale di inchiesta sul sistema bancario della Consob, scusatemi, Vegas, è andato dal presidente della commissione bicamerale di inchiesta sul sistema bancario Casini e ha portato e ha preannunciato che avrebbe depositato, immagino abbia già fatto, entro oggi la documentazione relativa alle banche venete. Teresa Trillò però si è parlato anche di altro, e l'intervento del presidente dei giovani di Confindustria, che ieri abbiamo avuto ospite, ha toccato anche i temi della campagna elettorale, di quello che serve al paese. Sì, esattamente. Alessio Rossi guarda alle elezioni del prossimo anno, invita a non toccare le riforme fatte fino a oggi. Ha citato il Jobs Act e dice che non va smontato perché è servito al paese ad andare avanti. Ha parlato anche di pensioni, dice che non va introdotto un contributo di solidarietà sulle pensioni d'oro per rendere la decontribuzione totale per le assunzioni dei giovani. È una misura, ricordiamo, prevista dalla manovra 2018 approvata nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri. Poi, secondo Rossi, con la prossima fine del quantitative easing della BCE e con le elezioni, si potrebbe creare un rischio politico tanto da mettere in difficoltà il paese in difficoltà finanziaria. Ma la soluzione c'è, dice Rossi, governare per andare avanti anziché litigare. Sentiamo. Chiunque vinca o non perda le prossime elezioni deve essere in grado di creare una coalizione con un vero e proprio patto di legislatura. Serve per creare un governo solido, ma a noi basterebbe anche un governo solamente utile. Chi vince le elezioni ha il diritto di governare il paese, ma ha anche il dovere morale di non far fare all'Italia il gioco dell'oca. Allora, grazie a Teresa Trillò, che continuerà a seguire i lavori della Dugione di Capri anche domani, e assieme anche al nostro Vincenzo Miglietta. Leggo solo una notizia appena battuta dalle agenzie: il consiglio di amministrazione di TIM ha esaminato e approvato a maggioranza la via libera alla joint venture con Canal Plus. Lo scopo è di disegnare e realizzare l'offerta di contenuti video premium che TIM offrirà ai propri clienti per accelerare lo sviluppo della connettività in fibra. La nuova società vedrà TIM al 60%, Canal Plus al 40%. Questo nel giorno in cui, sempre in tema di telecomunicazioni, era intervenuto anche il ministro Calenda, ha detto: io farei lo scorporo della rete, si riferiva alla rete di TIM, e la quotazione in borsa, non necessariamente con l'intervento della Cassa Depositi e Prestiti. Ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Come sempre un ringraziamento a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza anche questa settimana in redazione e in studio. Un augurio a voi in ascolto di un buon fine settimana, soprattutto per chi lo dovrà passare e trascorrere lavorando. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24, libera la voglia di fare.